gli acci di quel coso che c'era nella Coca-Cola, gli ha bucato lo stomaco, gli ha bucato, già, bucato. Beh, la Coca-Cola mica scherza, per le microlesioni è allucinante, si può insifonare anche lo stomaco, si fa insistente. È ovvio che ti porta anche a un declino dei succhi gastrici e delle noi abbiamo una protezione nello stomaco sotto, diciamo così, il primo dei succhi, no? Abbiamo una protezione speciale, se appena appena iniziamo a corrodere, proprio ad aggredire quella protezione, viene forata la parete dello stomaco. Tutto lì. Basta essere più attenti e più, diciamo così, e molto più rispettosi della persona stessa, perché noi non è che avendo in mano la nostra vita dobbiamo distruggerla bevendo, fumando e devastandoci, o anche se le malattie vengono pure senza questo, solo che uno, io non sopporto quelli che dicono muore chi fuma, muore chi non fuma, oppure muore chi beve, muore chi non beve, e purtroppo non è così. Io ho visto qualcuno crepato dall'alcol e dal fumo, oppure da queste bibite così, come hai detto tu, che non è che sono molto molto meno dannose dell'alcol, hanno anche loro il loro grado di così di pericolo, se lo vogliamo chiamare così, per lo stomaco almeno. Sì, no, quello infatti, ma io a me già ripeto, già non mi fa di seguito di berla questa roba qua. Io a volte lo bevo freddo, al limone, alla pesca, ma non per dissentarmi, per fare complimento così per coso, lo accetto. Ma ripeto, vedi, una menta con acqua gassata, vedi, la bevo ancora più volentieri, una menta con acqua gassata la bevo volentieri. Però preferisco sempre l'acqua, dico la verità, d'estate io la più forte di me l'acqua, bevo benissimo, mi dissetta l'acqua, non c'è altra cosa che mi dissetta, e se bevo l'aranciata, che non la bevo, devo bere subito l'acqua perché tutti i cosi dell'aranciata, se bevo un tè devo bere un bicchiere d'acqua per togliere cose. Poi volevo tornare all'acqua di Romana, io la prendevo sempre l'acqua di Romana, andavo a prenderla ogni tanto, ci andavo e portavo parecchio. Sai cosa mi succedeva? Mi è successo una volta, due volte, tre volte, e la quarta volta ho detto, boh, metto quest'acqua. Quando io andavo e prendevo quest'acqua qua, che prendevo anche 100-120 litri, tutto per portare due bidoni a casa, e mi succedeva che mi venivano questi dolori ai reni, calcoli renali. Ogni volta mi venivano questi dolori, calcoli renali, e pronto soccorso, e quello qua. E ogni volta che mi rendevo conto che io bevevo quest'acqua, poi è stata una volta, due volte, tre, alla quarta ho detto no, allora è quest'acqua che me lo fa. La quarta mi avevano anche ricoverato addirittura, sono stato ricoverato 3 giorni in ospedale per il caso. E ogni volta che bevevo quest'acqua di Romana mi venivano i dolori, le coliche renali, capito? Sali di un canale, G, che c'è un macello nero qua, sali di un canale. Sì. No, c'era buco, mi sembrava una portante sotto, vabbè, comunque, sì, l'acqua di Romana se la bevi molto o sforza un po'? Io la prendevo e la bevevo tutti i giorni, per consumarla. Capito? Sforza, se sforza i reni, allora ci sono, c'è quello che è compatibile e quello meno compatibile, comunque la renella la elimina, Infatti, in effetti, l'acqua curativa non è molto indicata come continuo, appunto parlavo, te la metti in frigo e te ne bevi un bicchiere ogni tanto, ma non è una cosa da frequentare, vedi? Nonostante che sia naturale, se non fa i suoi effetti, è inutile, quando si esce dal range della normalità, sempre problemi. Sì, infatti l'ho trovato più, io ci andavo apposta a prenderla, a volte mi fermavo in camion, io stavamo lavorando per Padria, stavamo facendo quella specie di condotta di quei tubi grandi da Olmedo, stavamo portando, no? Quei tubi enormi che c'erano lì a Olmedo, stavamo portando lì dopo Padria, e facevamo quella strada lì, di Ittiri, passavamo a Ittiri, facevamo quelle, passavamo sotto la fontana di Romana, e a volte tra l'altro che c'è il posto di entrare in camion e girarsi con il volto di tutto, mi c'entravo io già, e mi riempivo i bidoni, capito? Mi riempivo i bidoni avete portato a casa, bevevo di quell'acqua lì sempre, noi bevevo un bicchiere, bevevo anche 2 litri, quello che si beve giornaliero, capito? È positivo. No, io la bevo per dissetarmi, ma non tutti i giorni, non tutti i giorni, e via. Quindi, come è tutto, ogni cosa ha un limite. Gasosa, gassosa, l'acqua gasata, la Coca-Cola, il vino, il fumo. La normalità è normalità, ed è quella che oggi si conosce come normalità, e attenzione, quella che è anormalità oggi è normalità, e quella che è normalità è anormalità. Se tu ti presenti un bar e chiedi un bicchiere di latte, ti prendono per pazzo. qui non esiste, no? Se fai l'onore, anche se chiedi un cappuccino ti guardano, veramente. Secondo me capite, non loro ci sta, ma parlo di paesi, l'uno di quei paesi lì, proprio il latte, no, se chiedono un'acqua vite sì, ma non richiedere latte, perché proprio è una cosa strana. No, ma mi è capitato anche che ero su al ponte di Padre Urbano, no? Lì che stavo facendo dei lavori in un convento. A un certo punto, niente, sono sceso a passata con un amico, siamo andati, questo padre ha chiesto un Gatorade, adesso si gira questo senza che lo conoscessi, ma la ricchina sta bevendo, ma ti rendi conto? Lo so, e lì non va, per loro non va. No, ma lo so che lì non è, no, perché sono pastori e cose, ma no, non lo trattano, perché non chiede nessuno latte, queste cose così, no. Proprio latte no, non vai d'accordo lì. No, proprio ho chiesto Gatorade, quello è l'integratore minerale, non latte, proprio Gatorade, l'integratore minerale. Mai l'avessi fatto. Positivo, lo so, come quell'altro macchio, già le ali del volo del macchio, un giorno il mio collega l'ha bevuto, io non l'ho mai assaggiato, dico la verità, lui l'ha provato e ce l'ha fatta carica energia, e andato quasi, poi rientrando, dovevamo fermare che si mette a portare al pronto soccorso, è iniziato questi attacchi cardiaci, Giappone come se aveva bevuto non so quanti caffè con questa lattina di roba. Sì, fece. Normalità, mi difendo bene, sono molto, molto ponderato nelle scelte, lui. No, poi io non sono un boy scasinista spuntinante, capito? Assolutamente. Quando vado a qualche festicciola, con me stanno molto attenti anche a insistere, nel senso che non permetto di essere forzato, che bevi, fuori il cazzo. Cioè, ti dico una volta e basta, perché una persona deve essere rispettata anche in quella scelta. Oppure come quello che offre 50 volte la sigaretta, dice come non fumi, e poi torna a fumare, non fumi. È seccante, sinceramente, a volte si evitano le feste per questo motivo, perché fumo a tutto andare, gente che corre anche a destra, quello che te lo offre 50 volte, è seccante. Ma io non fumo, dico la verità, non fumo io. Ma mi dà fastidio quando sono posto chiuso che fumano, mi dà fastidio. Già mi allontano, già io, se c'è gente fuma anche all'aperto, mi allontano un po', dico la verità, mi tengo a distanza. No, per quello, no, io il problema mio non è di bere, perché di bere io ne faccio a meno, già. E il bello è che a me mi frega quando vedo roba da mangiare, quello che non resisto, quello è che mi frega a me, capito già, il bere già no, quello ne faccio a meno, è il mangiare che mi frega a me, capito, quello che mi fotte quando c'è roba, vedo roba da mangiare, arrostendo e facendo, e allora non riesco, mangio, non c'è niente da fare, quello mi frega, Quindi, purtroppo tutto quello che piace fa male, sono d'accordo con te, ma tutto quello che piace fa male. Io non fa, infatti che non mi regolo proprio per il colesterolo. colesterolo e per tutto il resto, perché devo andare così, perché poi non è il problema del mangiare, perché lo dissipo immediatamente per i lavori che faccio, questo è sicuro, però lo faccio anche per una questione di autocontrollo. Non mi posso sedere a mangiarmi mezzo porcetto, lo so, anch'io sono di quell'impostazione, però sto molto attento. Conviene sempre tirare il freno, alzarsene da tavola sempre con un po' di fame, ecco, questo fa bene, vedi, sì, mangiare un po' di tutto, però regolato. Anche questo è autocontrollo, perché poi farsi scappare lo stomaco, ecco, chiamalo così, o l'occhio, che vuole mangiarsi chissà che cosa per poi sentirsi sovraccarico lo stomaco, mica una cosa tanto bella, e ancora oggi. Lo so già, è quello, lo so. Io a volte ce la faccio, ma è difficile che ce la faccio, ma non ce la faccio. Quello mi frega a me, quello, il mangiare mi frega a me, guarda, è più forte di me. La sigaretta non mi convince, il bere non mi convince, guarda, ma il mangiare non ci riesco a fare, no. Allora il dottore mi ha detto, cerchi di pizzare la pasta, cerchi di pizzare il pane, cerchi di pizzare il formaggio, latticini, carne rosse. In poche parole devo mangiare verdure cotte e carne bianche, però dico la verità, io a volte non ne mangio pane, però a me piace la pasta e a me piace mangiare un piatto di pasta, capito? A volte ne faccio a meno se c'è altra cosa, però devo mangiare altra roba, capito? Può essere... Allora inizio a mangiare molte insalate, molte, non sono mai sazio. Però, diciamo, io la pasta mi piace, mi piace anche il pane quando secondo cosa sto mangiando, capito? Sono giorni che non ne mangio niente di pane, però sono giorni che mi siedo a tavola e ne mangio anche due panini. Secondo cosa sto mangiando, cosa c'ho da mangiare, capito? E sono giorni che non ne mangio niente, non ne tocco nulla di pane. Adesso sono oggi ho mangiato due fettine di pane, ma perché c'avevo roba da. E ho mangiato un po' di tutto, dico, a pranzo, per esempio oggi ho mangiato di tutto, ho mangiato formaggio, ho mangiato salsiccia, ho mangiato cotto, ho mangiato carne, ho mangiato olive, un po' di tutto ho mangiato, hai capito? Sì, è così che si fa. No, io mangio, cioè mangio, però mangio di tutto. Circa 90 kg insomma, voi ho tenuti, io sono una persona robusta, non è che sono un angiografo, e quindi mi devo alimentare correttamente, soprattutto perché poi quando sei in zona di lavoro non è che te la fai sotto, il problema più grosso è quello, io penso al dopo, non penso al momento che sto mangiando, penso al dopo, se poi sono in una festicciola, e allora, come hai detto tu, forse qualche volta mi sbilancio, ma ti garantisco G che comunque non fa bene. Non fa bene, anche se mi piace il porcetto, mi piace il bicchierino di vino, me lo berrei, ecco. Solo che poi mi urta quando iniziano a fumare, ecco, vedi, lì ti rovinano una giornata, perché poi il fumo ti arriva in faccia, inutile stare lì a girare. Arriva in faccia, G, non c'è niente da fare, capito? Questo è il problema. E lì mi viene la nausea. Tutto lì. Ma comunque, questione di scelte. Questione anche di trovarsi e regolarsi. No. Tutto lì, fate ancora. È positivo, una cosa. Contento che pesi sono 90 kg, così hai detto già. Non ho capito. Contento che pesi sono 90 kg. Sì, sono già alto 1,70 e qualcosa, 1,74. Mi ha parlato, no, io ho pesato l'altro, non lo so, l'altro giorno quel peso del Linic dentro la pulime, e ho pesato 94, però sono 1,78 alto io, però sono troppo peso, 94 kg, però non so se è giusto o sbagliato quel peso lì, però sono 1,78 io, Quanto sei alto? 1,78. 1,68? 7,8. Sì, già sei alto allora, anche voi. Già sei alto. No, io sono bello robusto, no. Non sono... Ho un filo di pancetta, ma proprio... Poi sono una persona che fa dei lavori abbastanza stressanti, anche con i macchinari o l'impiantistica. Diciamo che... Non me la meno, ecco. Non me la meno. E quindi... Devo resistere a parecchi tipi di sollecitazioni, ecco, tutto lì. Per cui... cui mi servono energie. Ma se anche tu allora vai in una festa magi e poi fai a dissipare un po', e poi se invece la sera vai a coricarti. Ah no, già tranquillo, no, io della verità ti dico bene, non ho problemi di gestione. Sto male se ho fame e vado a letto con la fame, sto malissimo. No, per quello non ne ho problemi, quindi già. Di gestione io ti dico bene, no. Anche in fretta ti dico, dico la verità, no, per quello non ne ho problemi. No, no, no, la notte, però mi sto abituando già. Mi sto abituando a questo la notte. La sera anzi, arrivo da lavoro, doccia, quello e quell'altro, e tra una cosa e l'altra mi si fanno le 8, le 8 e un quarto, le 8 e mezza, inizio a mangiare qualcosa, a cenare, mangio un po', così ci passa un'ora, due ore, ci passa un po' di cose per andare a coricarmi e sono già a posto, hai capito? Sì, sì, sì, sì, ho capito come procedi. Non sto a tardi, a cenare molto tardi, per esempio di notte già avevo questa cosa, ma una famiglia di persone, da parenti di mio figlio, della parte della moglie, una cosa e l'altra, e avevamo fatto questa rossita, questa cosa, eravamo in parecchie da accendere il fuoco e aspettare, sono fatti iniziare a mangiare già le nove e mezza, tra finita ieri notte, ho visto la mezzanotte, tra dolce e spaggerato e tiramisù e quello e quell'altro, e ho finito che era mezzanotte, e con quello poi sono andato a correre con la faccia piena, però dico la verità, ho dormito bene lo stesso, non ci sono stati problemi, però vedi, sono andato che stazio, molto stazio a coricarmi, capito? Infatti stamattina mi sono alzato e c'è un po' di pancia ce l'avevo stamattina, capito? Vai al 45 là. Da qua lo devo passare, la serata è qua. Poi vai, ti aspetto io. Aspetta un attimino. 45. Ci senti? Mi senti? Aspetta. Gigi. E stavo accendendo l'altro, dai, che bisogna attivarlo, dentro le cose qua, sì, sì. Ed entra tutta l'amplificazione, capito? Perché? Via, no, mi sono spostato un attimino da lì, mi secca rimanere in basso quando così vedi se te non puoi qua, e più c'è meno traffico a livello di CB, capito? Sì, no, ma anche io rimango, sono sempre qua, diciamo, no, non so poco sotto, dai, nei canali normali. Sì, a volte nel 5, quando sto viaggiando, per sapere un po', per vedere, sapere la strada, le cose, però di solito sono su questo canale qua, dai. Solo che questi apparati bisogna attivarli, se no non fa, capito? Sì, scusa un attimo, mi sta squillando il telefono, già, scusa un attimino. Sì, fai, sono qua. Gianni, è un amico che sta passando, se vuoi ritirare una cosa, sto cedendo un attimino in garage a taglia, se vuoi ritirare un pacco, una cosa che ho qua in garage. Un attimino, se dammi 10 minuti, se non lo, ti faccio chiamata qua quando risalgo, sto scendendo giù un attimino. No, dai che vado, ci dai che devo uscire. Ma per un momento ci sentiamo, dai, buon proseguimento, lì saluto un amico. Ci sentiamo nel prossimo, ciao ciao. Ciao ciao. Sì, a tutti. E così chiudendo leggermente il Mickey Gear, vedi un po' ma si mi cambio. Così è molto migliore. Io già lo so, è soltanto di aprirlo, sento quel Mickey Gear. E così non è pomeriggio da un'altra parte. Ma di che cosa? Delle tonalità? O di che cosa? Io, delle tonalità. Oh, vedi un po', cosa ne mette questa? Al massimo. Adesso sono al massimo, cambio. Poi gira tutta la mano, poi non fate il contrario, non dà regolazione di nulla. Mettila a metà. Adesso a metà. Vedi un massimiglia, vedi un po' a metà, cambio. Così va bene, così è bella, forte, chiara. Positivo è caparroglielo, poi lui vuole sentire la sua, se è così potente e forte, cambio. Solo che così inizia a innescare un po', Allora, prova tu questa. Vedi un po', non è il massimo. No, è che per la tua modalità della voce va bene questa posizione, questa. Senti l'eco massimo, se è giusto, se lo devo aumentare o abbassare, cambio. Ma potrebbe anche andare così, prova a aumentare appena, vedo, succede. Niente, massimo volume, canale, 45. Lascialo così l'eco, va bene. Quinta va bene.